nella vita reale di centinaia di migliaia di persone, è chiaro che se ci fosse una maggioranza che prescinde dalla Lega, la Lega non sta alla finestra. Io ricordo che nel 94 il primo governo Berlusconi cadde e fu fatto saltare dalla Lega proprio sul tema pensioni, non su altro. C'è un attimo un aggiornamento però dalla redazione, Salvini, le chiedo un attimo. No, tra un attimo saremo pronti dalla redazione con un aggiornamento. Allora, Salvini, intanto le chiedo questo: c'è il rischio della crisi di governo? Perché la Lega difende così tanto la questione delle pensioni? È un mero calcolo elettorale? No, io ho sentito questo, che lo faremmo per avere dei voti in più o in meno. Ecco, abbiamo tanti difetti, ma non guardiamo al sondaggio del domani mattina. Io sono stato subissato in queste ore, in questi giorni, su Facebook e via mail, da commenti, da richieste, da appelli da parte di soprattutto di coloro che sono fra i 45 e i 55 anni e che magari hanno il posto di lavoro a rischio perché l'azienda loro è in crisi, in cassa integrazione o sono dipendenti di piccole e medie aziende, dicono: se io perdo il lavoro adesso a 50 anni, chi mi ripiglia e come arrivo ai 65, 66, 67, 70 anni? Quindi non è un calcolo elettorale, anche se stiamo parlando di persone che hanno lavorato per 40 anni e che stanno al 71% nelle regioni del nord, quindi evidentemente andare a colpire chi sta lavorando da decenni o chi ha lavorato per decenni non ci sembra la priorità. C'è tanto altro da pescare, vi faccio poi due esempi concreti perché altrimenti non si capisce dove si possono andare a pigliare i soldi prima di toccare appunto chi ha lavorato per così tanto tempo. Allora, intanto staremo a vedere questa giornata a Bruxelles. Matteo Salvini, la ringrazio. C'è un aggiornamento importante della redazione perché purtroppo in Liguria ovviamente la situazione è di tutt'altro tipo, di maltempo davvero drammatica. Cristina Carpinelli. Sì, Alessandro, è un uomo, la quinta vittima del maltempo che ha colpito Liguria e Toscana. Il corpo è stato trovato in uno scantinato di Aulla, in provincia di Massa Carrara, dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Non si esclude che si trovi nello scantinato per recuperare qualcosa. L'altra vittima, sempre ad Aulla, è una donna travolta dalla piena mentre era in macchina. Questo piccolo paesino, quindi, della Lunigiana è stato devastato dall'alluvione. Quello che è successo in pochi minuti è allucinante, hanno detto i responsabili della protezione civile regionale che sono intervenuti ad Aulla, che è appunto uno dei centri più colpiti dal maltempo. Tre persone sono invece morte nel crollo della loro casa a Cassana, frazione di Borghetto di Vara. È in corso dall'alba l'evacuazione dei cittadini di questo piccolo borgo, le cui case sono rimaste isolate a causa dell'ondata di maltempo. I soccorritori nella notte, sempre al crollo di questa casa, sono riusciti a liberare una giovane donna trovata ancora in vita. Continuano ad arrivare segnalazioni di richieste di aiuto da parte di persone rimaste intrappolate, segnalazioni di frane, di allagamenti, di smottamenti. Sono almeno una trentina i comuni coinvolti, dei quali circa 5 sono isolati. Tra questi c'è Brugnato, dove i soccorsi sono difficilissimi perché la zona è isolata, e poi c'è anche Monte Rosso. Se avete storie da raccontare, se siete bloccati, volevo dirvi che noi siamo qui per ascoltare le vostre storie. Chiamateci al numero verde 824 0024, ci risentiamo alle 9. Grazie Cristina Carpinelli. Allora è il momento per noi di andare in pubblicità. Poi parleremo di che cosa? Parleremo della nuova Libia, nella quale il presidente del Consiglio Nazionale di Transizione ha detto: attenzione, perché ripristineremo la Sharia, o meglio toglieremo le leggi che sono contrarie alla Sharia, alla legge islamica. Tra l'altro in Tunisia si è votato lo scorso weekend e qualcuno dice: beh, attenzione, perché c'è l'avanzata del partito islamico, del partito islamico moderato per la verità, e quindi da una primavera araba c'è il rischio di un arrivo di un autunno islamico. Vi mette paura tutto questo? Chiamateci 800 24 0024, ne parliamo tra poco. 24 mattino. Quando sono le 8 e 34 minuti, eccoci cari ascoltatori, allora vogliamo parlare di quello che sta succedendo al di là delle sponde del Mediterraneo, non distante da noi, in Libia in primo piano, ma anche se volete quello che sta succedendo in Tunisia, dove ci sono state le elezioni. Qualcuno fa notare che il 40% è andato al partito islamico moderato, e oggi su Repubblica, prove di democrazia islamica, al titolo c'è anche un intervento di Bernard Guetta che dice ma insomma noi occidentali sempre a volerci mettere paura, adoriamo metterci paura. In realtà quello che sta succedendo è che ci sono state delle elezioni libere, ma in realtà anche quello che è successo in Libia fa sicuramente discutere. Il presidente del Consiglio Nazionale Transitorio Jalil ha detto più volte: le leggi contrarie alla Sharia, alla legge islamica, al precetto coranico verranno cancellate, compresa la poligamia. Per l'Islam è giusto avere più mogli e così in Libia sarà. La domanda che ci poniamo tutti noi occidentali è da qualche giorno: ma insomma vuoi che quelli che arrivano ora siano poi peggio di quelli che c'erano prima in Libia? Di questo discutiamo, lo facciamo con l'onorevole Suad Sbai del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto onorevole. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto anche il giornalista e scrittore Massimo Fini. Buongiorno Fini e ben ritrovato anche a lei. Buongiorno. Intanto io il punto di partenza lo vorrei fare dal vescovo di Tripoli, il vescovo di Tripoli Martinelli, Monsignor Martinelli, che la nostra redazione, il nostro Alessandro Longoni, ieri ha raggiunto. Sentiamo cosa ci ha detto riguardo alla questione della Sharia, la legge islamica, i timori dell'Occidente. Penso che sia una considerazione e un proposito buono, perché ecco, non si può fare una legge se non c'è un'anima e un fondamento, o se vogliamo una fecondità profonda di questa situazione sociale. La religione è sempre un valore che vuole dare significato e diciamo anche importanza a quello che uno vuole costruire. Non deve far paura la religione musulmana, perché per sé non è la religione musulmana, non è fondamentalista. Ora, se uno la propone e vuole fare riferimento alla religione, penso che sia un aspetto positivo. Si tratterà poi di controllare chi ha l'esperienza del fondamentalismo e del radicalismo, darla a controllare perché possa rispettare i giusti diritti delle persone. La Libia non è un paese fondamentalista per tradizione, è un paese musulmano di sunnita, quindi che per tradizione dà libertà religiosa, ma è religioso il popolo musulmano libico, ma non è stato mai fondamentalista, anche se ci sono state delle spinte, più per ragione politica, ecco, spinte fondamentaliste. Quindi io non ho paura della parola che dice la Sharia nella legge musulmana o nella Costituzione, è un modo di esprimersi per dire è importante che ci sia la religione alla base di ogni legge, di ogni rapporto umano sociale nella comunità musulmana libica. Allora, onorevole Sbai, il vescovo Martinelli dice non dobbiamo avere paura, non fa paura la religione musulmana. La Libia poi non è mai stato un paese di tradizione fondamentalista, ma musulmano sì. A lei fa paura, onorevole, quello che sta succedendo in Libia? Fa paura, certo che mi fa paura, anche se uno dipende come la vede la Sharia. Un uomo non ha paura della Sharia, sono le donne che devono avere paura della Sharia, perché la lapidazione vengono lapidate più le donne che uomini, oppure tante altre cose, inutile adesso che elenco il dramma delle donne, basta anche guardare un po' intorno quello che succede in alcuni paesi radicali. E a me mi fa paura il salafismo, l'avanzata salafita. Poi molti parlano di cambiamento Libia. Quale cambiamento? Cioè, Mustafa Jalil era l'ex ministro dell'interno, è un fratello musulmano, lui che era l'esecutore di Gaddafi e continua a andare avanti. Nel senso, di cambiamento io non ho visto i giovani. Però lui non è la Libia, nel senso senso, l'idea è che la Libia ora possa essere composta da varie forme. Lui che adesso ha in mano la Libia, questo è lui che ha in mano la Libia. Libici escono fuori da un dramma, da 30 anni di terrore. I libici non hanno abitudine, no, di uscire e esprimere il loro pensiero. C'è il terrore, sono appena usciti da una dittatura orrenda. Mustafa Jalil e company non sono diversi da Gaddafi, sono gli stessi. E spero che nel futuro, tra un anno, cambiano le cose con i giovani, con le stesse donne, a cambiare questa avanzata, diciamo, questa rivoluzione islamica. E di questo si tratta, non ci possiamo nascondere dietro chissà che cosa. È una rivoluzione islamica, è arrivata al suo momento, aiutata dall'Occidente, questo è chiaro, perché da sola non ci avrebbe mai fatta. E passerà, perché una crisi, per esempio in Egitto, la crisi economica in Egitto, vorrei vedere i fratelli musulmani come l'affronteranno. Oppure l'idea è questa rivoluzione, che cosa partorirà, come certo. E nei germi, insomma, qualcuno ci vede del timore, come lei, altri magari no. Vorrei capire da Massimo Fini se la inquieta quello che sta succedendo, e se la domanda è mal posta oppure no. Sono migliori quelli che c'erano prima in Libia a questo punto, o dobbiamo confidare che siano migliori questi? Innanzitutto, se un paese vuole essere islamico, ha diritto di essere islamico. È come se, anche radicale, è come se qualcuno venisse da noi e pretendesse che il mondo occidentale, invece di essere occidentale, fosse islamico. E questa è la continua propaganda che l'Occidente fa, e le pretese che ha verso culture che sono diverse. Detto questo, secondo me quello che non fa paura, fa schifo, è quello che è successo in Libia, perché si è partiti con una risoluzione ONU che doveva imporre una no-fly zone, cosa già dubbia, perché viola il principio internazionale di non ingerenza negli affari interni di uno Stato straniero, ma già era stato abbattuto in Serbia, e abbiamo capito che il diritto internazionale non esiste più, esiste il diritto del più forte. Comunque, si era intervenuto per limitare la superiorità aerea di Gheddafi e si è finiti all'incontrario, cioè con gli aerei NATO che hanno vinto questa guerra, perché non l'hanno affatto vinta ai questi pseudo rivoltosi libici. Faceva giustamente notare la parlamentare PDL che sono gli stessi, sono gli sgherri di Gheddafi, sì, fra i peggiori, ministro della giustizia uno, quindi immaginiamoci. E con questo, e in più si diceva, per questa risoluzione, per salvare il popolo libico, e voglio dire, che cosa, quali problemi poneva la fuga di 30 disperati per salvare la pelle? In più abbiamo assistito a una cosa che è veramente, diciamo, riguarda questa civiltà che noi consideriamo superiore, cioè abbiamo assistito al linciaggio in diretta di un uomo, dittatore o non dittatore. Quindi voglio dire, io non mi aspetto niente. L'hanno linciato loro, però non è che l'hanno linciato. Sì, va bene, però che l'abbiamo linciato noi dell'Occidente. Il convoglio è stato colpito da aerei francesi o inglesi. Ho capito, quella è un'azione di guerra, se si vuole. Sì, va bene, ma allora non dite che state difendendo i civili, perché quelli non stavano mettendo in discussione, non stavano mettendo in pericolo nessun civile. E poi quindi ripeto. Io non mi attendo nulla di buono né di particolare, ma non per le ragioni che diceva l'onorevole PDL, ma perché questi libici non si sono riscattati in libertà da soli, ma hanno dovuto chiamare, o meglio, è arrivata mamma NATO, e qua non si ci riscatta in libertà da soli, le conseguenze poi sono gravi. È la stessa cosa che è avvenuta in Italia, se vogliamo, dove noi cioè siamo... c'è stata la necessità di un intervento nostro, altrimenti è diversa quindi la situazione, che ne so, lei dice in Egitto, in Tunisia, dove ci sono state le rivoluzioni. La rivoluzione veramente riuscita, veramente, come si può dire, reale, è stata quella tunisina. In Tunisia. E in Egitto in realtà una rivolta di popolo è stata subito trasformata in un golpe militare, e si sa che l'esercito era al servizio di Mubarak, oltre che degli americani. Quindi direi che l'unica rivoluzione vera, cioè fatta dal popolo, che in due giorni, con una cosa di massa violenta ma non armata, ha cacciato il dittatore Ben Ali. Ben Ali. Allora, le 8:47 minuti, vorrei sentire due ascoltatori. 800 24 00 24, ci stiamo interrogando sulla Libia nuova che avanza, sulla primavera araba che è alle porte. Yusuf da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dal nome immagino di origine, di che origine? Marocco. Marocco, dica. Buongiorno signor, mi scusi l'emozione. Cioè, veloce, Gaddafi ha raccolto quello che ha seminato, poteva benissimo andarsene via dopo aver rubato più di 100 milioni di miliardi di euro e nessuno, e chiedere l'immunità e andare via senza causare la sua morte, tre dei suoi figli e 50.000 libici. Secondo, la signora Swazbai parla dell'Islam, siccome lei arriva dall'Afghanistan, che da noi è re, ha un nome che è il principe o l'emir dei credenti, quindi arriva dall'Islam. Da noi non c'è la Sharia, tutte queste cose. Un'altra cosa, l'ultima, Yusuf Islam, Cat Stevens, quando si è convertito all'Islam ha detto sono contento di aver conosciuto l'Islam prima di aver conosciuto i musulmani. Cioè, l'Islam è come una macchina perfetta, come una Ferrari, la dai a uno, in mano a uno, e fa un incidente. A chi è colpa? Alla macchina o a quella guida? Insomma, è molto, molto preciso nella sua analisi. Grazie, Yusuf. Quindi dice non c'è da temere l'Islam in quanto Islam. Swazbai vuole rispondere, tra l'altro anche lei, marocchina, a Yusuf che ci chiama? Che è molto infantile, molto maschile, molto maschilista. Cosa vuol dire un senso di Islam, la macchina o noi l'Islam è una cosa, è chiaro, i musulmani sono un'altra cosa. Nord Africa è sempre stato sunnita, musulmano, sunnita, però moderato, non ha niente a che vedere con altri paesi, insomma, più radicale, anche se anche nel Nord Africa l'avanzata salafita esiste, c'è una realtà che dobbiamo convivere. Qualcuno fa finta di non vedere, come il signor Youssef, che parla di Amin Mu'minin. Certo, Amin Mu'minin è lui il capo di tutti i credenti, così nessuno può parlare, che nessuno può dire la sua su questo tema, e fa anche bene oggi, però insomma poco democratico direi. E io sono totalmente d'accordo con lo scrittore Massimo Fini su tutte le sue tesi. È uno schifo quello che è successo in Libia, è uno schifo. È chiaro che lui non è che abbiamo simpatia o simpatia per Gaddafi, l'unica che l'ha criticato quando è venuto a Roma a consegnare alle donne, alle fanciulle, e quella sono stata io, e sono stata anche criticata da parecchie persone, va bene. E lui non era ecco, questo santo, stinco di santo, insomma, come si dice a Roma, è un dittatore, è chiaro, come tutti i dittatori nei paesi arabi, non è solo in Libia, dappertutto ci sono i dittatori, dappertutto abbiamo aiutato per tutti questi anni i dittatori, abbiamo collaborato con i dittatori, abbiamo dialogato con i dittatori, ci hanno fatto comodo i dittatori nelle varie guerre, questa è una realtà che noi non dobbiamo nasconderci. Sì, ma io non ho paura. Ma quello che le chiedo è che questi dittatori, alcuni dittatori secondo lei sono stati anche per anni un argine al rischio di derive fondamentaliste religiose? Ma è chiaro È chiaro, in Libia lo è stato, in Marocco lo è stato, in Tunisia idem, tutti, e anche Mubarak, hanno oppresso un gruppo che è il gruppo dei fratelli musulmani. Piano piano i gruppi quando sono oppressi, poi col tempo, con i soldi, anche tanti soldi, poi si organizzano, è questo che è uscito fuori. E non mi parlate di primavere, di gelsomini, di cose, che qui di gelsomino c'è solo l'odore di petrolio e altro, no, non c'è. Beh, non magari in Tunisia, più in Libia che in Tunisia. Una rivoluzione islamica che dobbiamo affrontare. Io sulla Tunisia, sì, insomma, sono stata molto critica perché molti giovani e anche molti amici hanno fatto, sono andati in piazza, hanno fatto tante manifestazioni e oggi si sono trovati messi da parte. Ghannouchi ha vinto una parte, ma avrà da affrontare anche una popolazione comunque moderata. Avrà da affrontare. Ma certo, Rashid Ghannouchi, volevo ricordare, Rashid Ghannouchi è la leader del partito. Partito islamico e nada. Massimo Fini, c'è anche da preoccuparci del fatto che il presidente del Consiglio Nazionale Transitorio dica per l'Islam avere più mogli è consentito e così sarà in Libia, oppure diciamo nell'ambito dell'autodeterminazione delle proprie scelte la Libia deciderà se deciderà così e tutto ci deve andare bene. Ma mi lasci dire che sono contento di essere, che la signora Sbai sia d'accordo con me una volta tanto, lo dico sinceramente perché... Miracolo a Radio 24! Miracolo a Radio 24! Abbiamo messo d'accordo. Aveva chiesto il sequestro del mio libro sul Mullah Omar. Detto questo, noi dobbiamo rispettare l'autodeterminazione dei popoli, non possiamo pretendere che tutto il mondo sia uguale all'Occidente, che tra l'altro ha delle grane e dei vuoti di valori e di cose spaventose in questo momento. Quindi come è avvenuto in Algeria, voglio dire, nell'81 ci sono state le prime elezioni libere dopo 30 anni di dittatura di generali tagliagole, le vinse il FIS. E allora, con l'appoggio dell'Occidente, si disse che non valevano, il vinse col 76% del 76% dell'elettorato, si disse che siccome avrebbe instaurato una dittatura, si ribadì quella precedente, la sanguinaria dittatura algerina. E con questo abbiamo causato poi la sanguinosa guerra civile, per forza, perché se tu metti in galera i rappresentanti del 76% della popolazione, qualcosa succede. Cioè l'Occidente, per me, qui credo che sono in disaccordo con l'onorevole Sbai, mi piace, ma l'Occidente dovrebbe smettere di fare il gendarme del mondo. Ha inanellato, da quando è crollato il contraltare russo, 5 guerre, una meno giustificata dell'altra. Prima la prima guerra del Golfo e vabbè, poi la guerra alla Serbia che non si capisce assolutamente perché, poi la guerra all'Afghanistan che potrebbe avere un poi tempo. L'altra in Iraq, poi un'altra in Iraq e adesso la Libia. Allora chi è il pericolo nel mondo? I musulmani o l'Occidente? Su questa domanda però vi devo fermare. Sbai, ma lei è vero, si è chiesto se questo è il libro di Massimo Fini, rimane quella richiesta? Sì. No, c'è stato un malinteso. E io, ci mancherebbe altro, io ammiro come scrittore, poi uno delle volte scrive delle cose controcorrente, e in quel momento un pochino possiamo anche essere, non essere d'accordo. L'importante, vi abbiamo messo d'accordo qui a Radio 24, dai, vediamola così. No, grazie all'onorevole Suad Sbai del Popolo della Libertà e Massimo Fini, giornalista e scrittore. Ci fermiamo con Peter Bescapè in regia, in redazione Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Viola Bottoni. La linea va a Oscar Giannino e noi ci ritroviamo domani alle 7:20.